la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qua alle 16.30 primi e 50, quasi 31 primi direi, in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi ringrazio per l'ascolto diretta in podcast, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it per tutte le osservazioni quotidiane e, scusate la tosse, ohimè, non bisognerebbe farla mai, e anche per candidarvi alla serie di puntate di cui oggi ne proponiamo un'altra, quella della serie Italia non per giovani, di chi va fuori e spiega perché e in base a quale ragionamento e come si trova fuori, o se sia tornato o prepara di tornare poi dopo l'esperienza fuori di lavoro o di studio, e di studio e di lavoro poi in sequenza soprattutto, ma anche di chi rimane qui, anche di chi appartenendo a generazioni più avanti pensa che si debba fare qualcosa e ci voglia proporre cosa. Lo abbiamo avuto in alcune circostanze, in una puntata, papà che insieme alla moglie diceva: io per mio figlio che sta fuori sarei disposto sulla mia pensione retributiva a un taglio se fosse orientato ai giovani. Devo dire 9 su 10 di quello che hanno scritto non sono d'accordo con questa impostazione, e pur tuttavia c'è anche chi pensa di sì. Allora, vediamo chi è oggi ospite e che storia porta, e in quale parte del mondo, se non sta in Italia, sta e perché ci è finito e cosa fa. Cominciamo con Rudy Bortolini, perdonate, perdoni Rudy, come stai e grazie di essere con noi. Grazie a te Oscar, io sto benissimo, tu come stai? Ma insomma, in questo momento da dove ci stai parlando? Dove sei? A Stoccolma, dall'ufficio di Stoccolma. Io vivo qui a Stoccolma, come ti ho raccontato sulla lettera. Ecco, però naturalmente chi ci ascolta non sa nulla di cosa mi hai scritto, che glielo dobbiamo raccontare adesso. Allora, solita domanda iniziale: da che parte d'Italia provieni, come ti sei formato, il tuo percorso? Io vengo da molto vicino Venezia, diciamo sulle colline tra Venezia, la parte interna di Venezia. Il mio percorso è iniziato come grafico, ho sempre studiato come grafico, poi nel corso del tempo mi sono sviluppato come industrial graphic designer, per cui grafico di prodotto diciamo, e poi verso la fine mi sono concentrato sulle interfacce grafiche, quello che si chiama user interface. Questo è il mio percorso. All'inizio dunque questa evoluzione innanzitutto nella grafica rispetto a quando avevi maturato la passione per la grafica, ti è venuta perché all'inizio pensavi a grafica per comunicazione e poi guardandoti intorno hai iniziato a pensare che invece le applicazioni della grafica al disegno industriale fossero la vera cosa che ti convenisse, o era pura passione l'evoluzione? No, diciamo che come dici tu, la mia prima passione era la grafica per la comunicazione. Immaginavo. Poi mi sono ritrovato all'interno di questo mondo, mi è successo, ho iniziato a lavorare nelle grandi industrie, per cui conoscendo il design, i processi del design, e poi mi sono ritrovato pian piano ad amare questo lavoro, molto più della comunicazione, e poi questo mi ha portato anche poi con la rivoluzione digitale, diciamo, a buttarmi sulle interfacce grafiche. Allora, a quel punto, dopo questa formazione, quando hai cominciato a lavorare e dove? Beh, io ho iniziato per una grossa multinazionale più di 15 anni fa, molto vicino a dove vivevo in Italia, diciamo, e ho iniziato quasi per caso, nel senso era una sostituzione di maternità, non sapevo esattamente a cosa andavo incontro, ho iniziato a appassionarmi, poi di lì ho lavorato in vari uffici e poi ho iniziato subito a viaggiare, perché questa è una grossa multinazionale che aveva sede comunque anche a Stoccolma, per cui diciamo che sono 12 anni che viaggio verso Stoccolma. Stoccolma è la mia seconda casa, se vogliamo dire così, e poi ho lavorato negli Stati Uniti, a Londra per un po', eccetera, per cui insomma questo è stato il mio percorso che mi ha portato verso Stoccolma. Ma sempre nella stessa azienda? Sì, io sono rimasto 15 anni per la stessa azienda, ora ho cambiato azienda da pochissimo, da qualche mese, sempre a Stoccolma, però sì, inizialmente sempre per la stessa azienda, in contesti diversi, in luoghi diversi, per cui sostanzialmente per aziende diverse, se vogliamo dire così, però sempre sotto la stessa ombrella. Ma tu hai detto che ci eri finito per caso. Prima di finire per caso in una sostituzione di maternità in questa multinazionale che aveva anche sede vicino a dove sei cresciuto, quanti curriculum avevi mandato e quanto hai aspettato? Beh, diciamo che non ho aspettato moltissimo perché ho iniziato abbastanza giovane a buttarmi nel mondo del lavoro, e però certo era molto difficile. Diciamo che ho cooperato con qualche studio, qualche agenzia, ma cose veramente sporadiche. È successo veramente per caso, nel senso che è stato uno dei miei primi, una dei miei primi tentativi ad entrare nel mondo del lavoro, e così è stato, abbastanza semplice. Credo molta fortuna, devo dire la verità. Fortuna, tu dici? Vabbè, la fortuna aiuta gli audaci. Ma da quando hai messo piede la prima volta in quell'ufficio a quando ti è arrivato un contratto, poi ci dirai che tipi di contratti, però più stabile, quanto tempo è passato? Beh, la cosa è stata molto veloce, perché appunto, ti ripeto, parliamo di 15 anni fa, e 15 anni fa, diciamo, la situazione economica anche in Italia lavorativa era molto più solida. Nettamente è altro che. Sì. Esattamente, per cui la cosa è stata abbastanza semplice, diciamo così, e abbastanza istantanea, tutto sommato. Per cui, poi, come dicevi tu, credo sia stato un colpo di fortuna all'inizio, poi ovviamente questa fortuna si è dovuta ripagare, nel senso che ovviamente ho dovuto provare, comprovarmi ogni volta, perché ovviamente spostandosi in diverse realtà anche sotto la stessa azienda è come reinventarsi ogni volta di nuovo, per cui. Se fai un paragone rispetto a gente con cui sei in contatto, che conosci, che ha avuto la tua stessa formazione e poi ha preso percorsi diversi magari in Italia, e fai il paragone delle occasioni che ti sono state offerte perché eri finito in questa multinazionale e l'accelerazione che questo ti ha consentito andando all'estero sotto questo ombrello, che considerazioni hai fatto negli anni? Beh, diciamo che prima di tutto credo che l'ambito internazionale, cioè lavorare per delle grosse aziende, mi ha subito aperto gli occhi su cosa vuol dire lavorare a livello europeo o lavorare a livello mondiale, cosa vuol dire lavorare con persone che hanno differenti culture, che vengono da differenti paesi, questo di sicuro. La seconda cosa, secondo me, è che, come dici tu, dà una spinta abbastanza potente, per cui ci si sente molto responsabilizzati, però anche molto supportati, ed è quello che io trovo una tra le differenze più grandi, diciamo, tra lavorare in Italia o per aziende prettamente italiane rispetto a lavorare per aziende multinazionali, insomma, o che hanno un respiro un po' più ampio. Tu mi hai scritto, leggo testualmente: in Svezia ho trovato quello che in Italia non trovavo più, non solo la crescita, ma dove per crescita è la crescita individuale, non solo la crescita del paese, la crescita. Certo. Poi dici la meritocrazia, il concetto di indipendenza, poi aggiungi la libertà gerarchica, oltre che una condizione e una dimensione economica totalmente diversa. Puoi far capire meglio con qualche esempio a chi ci ascolta? Sì, guarda, per essere molto pratici, sostanzialmente la libertà gerarchica, quello che io intendo è che qui le organizzazioni, io ti parlo soprattutto del mondo svedese che conosco molto bene, le organizzazioni hanno, come dire, una flat organization, di conseguenza non c'è grossa differenza gerarchica ad esempio tra il mio manager e i ragazzi che possono lavorare per me. Sono per più piatte delle nostre, meno verticalizzate. Sì, molto, molto meno, è tutto molto più semplice, cioè se qualcuno ha un input, qualsiasi idea o qualsiasi commento o feedback lo può fare, indipendentemente da dove si trova, con chi parla, in che contesto è, per cui la cosa è molto molto semplice. Io ho sempre trovato questa semplicità, diciamo, rispetto alle organizzazioni tipiche italiane. Per quanto concerne la dimensione professionale, diciamo, secondo me, io credo di aver avuto molto, perché è chiaro che un background culturale multietnico è un background culturale fatto di grosse aziende che hanno possibilità, ci sono molte informazioni che si possono apprendere e c'è molta educazione nella quale, all'interno della quale, diciamo, si può crescere. Questo mi ha fatto, insomma, crescere molto di più di quanto stavo crescendo in Italia. Quando dici il merito, significa che l'anzianità non è il criterio, ma sono i risultati portati, quelli che anche differenziano negli anni. Poi i riconoscimenti nella retribuzione, nei gradi, nei nuovi progetti, nel cambiare paese e così via, nella tua azienda. È esattamente così, per quanto banale possa sembrare, è esattamente così, cioè per cui l'anzianità non è il primo requisito, anzi non lo è proprio, diciamo, ed è banalmente proprio così, nel senso che se una persona lavora bene, contribuisce bene e trova un buon modo per integrarsi in un tipo di realtà, la crescita è, come dire, automatica, non automatica perché va da sola, però automatica nel senso che è molto aperta, le porte sono aperte, si può crescere. voi avete, perché sei sposato, hai una compagna, voglio dire, e avete una figlia che sta crescendo adesso a Stoccolma. Sì, abbiamo una bambina piccolina di 5 mesi che si è appena mossa con noi qui a Stoccolma, ed era una delle ragioni esattamente che ti dicevo sulla lettera per le quali io mi sento molto bene qui e volevo portare la mia famiglia. No, spiega perché per lei pensi che sia meglio se cresce in Svezia? Beh, diciamo che, intanto te lo dico dal punto di vista mio, diciamo che qui è tutto molto più semplice e ci si può focalizzare sulle cose importanti della vita, questa è la mia esperienza, nel senso ci sono molti meno problemi burocratici, ad esempio c'è molto più spazio per la famiglia, c'è molto più spazio per la persona e di conseguenza è un ambito nel quale, come dire, una persona, un padre, come nel mio caso, ha modo di spendere del tempo e del tempo con del valore con la sua famiglia. In secondo luogo, diciamo che c'è una flessibilità che ovviamente in Italia non esiste. Io ho potuto fare la paternità in Italia, per cui stare a casa con la mia compagna in Italia e mia figlia per 4 mesi, per cui godere ogni giorno di questa piccola bimba che stava crescendo, e qui posso ovviamente avere molta flessibilità a lavorare da casa quando serve o quando c'è più conveniente. Quindi è vero, insomma, che la conciliabilità del tempo lavoro nelle aziende di tipo nordico scandinavo rispetto a quello italiana è un'altra dimensione, non è che è solo un po' in più e un po' meglio, è proprio un'altra dimensione. Sì, è un'altra dimensione, sia dal punto di vista che nei fatti lo è, nel senso che per tutti lo è, di conseguenza è una cosa molto, molto semplice che si vive costantemente ogni giorno, e lo è anche dal punto di vista culturale, cioè è totalmente accettato, è comunemente, diciamo, accettato il fatto che le persone abbiano una vita propria che va, nel senso, al di là che della non famiglia. Diventa un demerito rispetto alle promozioni il fatto di che il papà per mesi si assenti perché c'è la figlia, ecco, tradotto. No, assolutamente no, questo è parte proprio della cultura nordica e appunto si ritrova, nel senso che i bambini ogni tanto si vedono negli uffici, il fatto di avere la paternità dal punto di vista di entrambi i genitori secondo me ha valore da un punto di vista professionale, perché una delle due persone può rientrare al lavoro prima, specialmente pensando all'Italia, voglio dire, la donna, in modo che non perda questa onda lavorativa, non perda la sua professionalità, come purtroppo è spesso il caso. È assolutamente così ancora. E nel futuro tu, la tua compagna e la tua figlia Marie, che fate? Tornate, restate, andate in altri paesi? Che nel futuro, per quanto capisco che siccome ti sei spostato molto nel mondo, ma dovessi immaginare un futuro, si torna? Onestamente non te lo so dire, non ti so rispondere, il futuro per noi, diciamo, va di 3 o 4 anni alla volta, più di così non riusciamo a immaginare. Io credo che sì, tornerei, nel senso, noi abbiamo casa lì, abbiamo le nostre famiglie lì, per cui sarebbe bello tornare, torniamo molto spesso, però il mio punto di vista è semplicemente questo, non voglio o non voglio che la mia famiglia sia disposta a pagare un prezzo troppo alto, e ovviamente non intendo economico, pur di rientrare semplicemente in Italia. Ci sono molte possibilità stando fuori dall'Italia, cose che non si trovano in Italia, per cui non credo che in questo momento per me e i miei cari, diciamo, abbia senso ritornare in Italia, perché sarebbe troppa la pressione che dovremmo affrontare, troppe le cose nelle quali ci dovremmo ributtare, che alla fine abbiamo deciso che non erano cose per noi. Un'ultima domanda: tu sai che in Italia, certo, sta crescendo potentemente per gli effetti della crisi, perché è stato vittima del reddito pro capite eccetera eccetera, e anche per campagne politiche tambureggianti quotidiane da una parte e dall'altra dello schieramento, la frazione di coloro che non credono più nell'Unione Europea, non credono affatto più nell'euro eccetera eccetera, per te l'Europa è ancora una dimensione, visto che lì poi che soprattutto ti sei mosso, anche se non solo lì, anche negli Stati Uniti, ma è ancora una dimensione da difendere o ha perso significato? Sì, certo, guarda, secondo me l'Europa è sempre stata la mia dimensione, di conseguenza per me è molto naturale dirti sì, e è una dimensione ancora da difendere. Io credo che però ci siano due questioni, una è la questione ovviamente della crisi, per cui la questione economica, la questione lavorativa, la seconda sia una questione culturale. Io credo che al di fuori dell'Italia, in alcuni paesi, ci si senta europei più di quanto magari ci si senta europei dal punto di vista italiano e rimanendo in Italia. Io sono molto d'accordo con questa tua conclusione, anche se mi stanno svanendo le certezze, perché vedo che ogni giorno la percentuale di italiani che pensa di voler tornare ai dazi, alle barriere, eccetera, eccetera, sale. E quindi vedremo come va a finire, vedremo innanzitutto come voteranno gli olandesi il 15 marzo, vedremo come voteranno certo. poi i francesi da aprile a maggio e capiremo. Intanto grazie per essere reso disponibile e averci raccontato la storia tua, della tua compagna, della vostra figlia. I più grandi abbracci da parte mia e di chi ci ha seguito, e ti ringrazio. Tra un minuto noi torniamo dopo il trap. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Nel frattempo le agenzie hanno battuto una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Trump, che alla conferenza annuale del movimento conservatore ha detto, leggo virgolette, costruiremo il muro e prima del previsto, il muro del Messico lo faremo prima del previsto. Va bene. Sapete che è la parte residua, perché ce ne sono già 1200 chilometri costruiti con Clinton e Obama, quindi, però insomma l'annuncio è questo. Allora, adesso andiamo a un'altra storia che ha all'inizio, non del miracoloso, ma insomma è una grande storia di successo, per cui direi, ma non so se stiamo parlando proprio di chi in Italia se la passa male, ma la sua forza è che, raggiunto in età verdissima il successo, fondando una società, stiamo parlando di una società all'inizio nel settore dell'ICT, da parte di due ragazzi giovanissimi che all'epoca avevano 24 e 23 anni, e poi con un successo clamoroso nella ricerca di capitali per finanziarla, naturalmente non sulla sfittico mercato italiano, ma negli Stati Uniti. Eppure la decisione non è quella di fare ciao ciao all'Italia, ma di restare con l'azienda a Torino, o meglio a cavallo tra gli Stati Uniti e l'Italia, ma di restare anche a Torino. Per questo la storia ci ha molto incuriosito, ed abbiamo con noi uno dei due ragazzi che la fondarono ormai all'inizio degli anni 2000, nel 2001, cioè Simone Offredo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Giannino, buon pomeriggio a voi. Il suo consocio, il suo fratello di visione è diventata realtà, Francesco Scrufari, saluto anche lui a distanza ovviamente. In questo momento lei dov'è, a Torino? A Torino, sì sì, sono a Torino. Allora, com'è che voi a 23-24 anni avete avuto l'idea di questa società che si chiama Ulix? Ma noi abbiamo avuto un'idea a 23-24 anni perché fondamentalmente ci ha spinto un po' la voglia di poter fare o di provare a fare qualcosa di nostro, quindi una voglia più che altro imprenditoriale. E ci interessava, noi lavoravamo già in precedenza nel settore ICT, quindi ci interessava comunque continuare quel discorso. Che formazione avevate? Allora, la nostra è una formazione un po' particolare, perché entrambi poi noi abbiamo fatto le scuole assieme, io e il mio socio Francesco, alle superiori come informatica. Poi invece a livello universitario ci siamo divisi, lui ha fatto economia e umanistica, storia critica del cinema, quindi due aspetti storia critica del cinema, completamente sì, diversi. Completamente diversi, però mentre facevamo l'università lavoravamo e continuavamo a lavorare nell'ambiente IT. E avete avuto... questa idea. Abbiamo avuto questa idea. L'idea poi fondamentalmente era quella di portare sul web. Ma i soldi all'inizio, i soldi, e poi soprattutto i soldi, ma sì. Fino ad arrivare negli Stati Uniti, i soldi da dove venivano? Dalle famiglie? I soldi arrivavano dalle famiglie che facevano, diciamo, da riuscivano, come dire, a contenere i nostri costi. Nel senso che da una parte c'erano sacrifici nostri ovvi, che secondo me si possono fare anche a una certa età. Non c'è dubbio che se questo percorso uno l'avesse iniziato... Perché all'inizio voi avete iniziato con un capitale che era di quanto? Come ordine di grandezza? Al minimo, all'inizio era veramente di 5.000-6.000 euro. 5.000-6.000 euro, quindi sì, non sì, una cosa che dice... No, anzi se devo raccontare tutti gli aneddoti, all'inizio dalle banche avevamo ricevuto diverse porte in faccia. Ah beh, ma questo immagino. Anche banche che ci davano, diciamo, dopo 6 mesi chiudevamo, cioè ci è andato proprio anche questa di spiegazione, quindi non eravamo in grado... E invece loro. Come mai la raccolta di fondi poi negli Stati Uniti è stata milionaria? Allora, negli Stati Uniti noi ovviamente siamo arrivati poi più tardi, cioè qualche anno dopo, anche se poi alla fine abbiamo iniziato con una startup che abbiamo deciso di fare negli Stati Uniti, quindi per il mercato americano comunque eravamo una società vergine, come come lo eravamo stati in Italia nel 2001. Noi avevamo ideato un prodotto che era un'app che fondamentalmente prendeva contenuti editoriali, quindi testo e grafica, e venivano animati, ed era un'idea che era quella di dare un senso alla lettura su tablet. Parliamo di 2013, quindi parliamo di un'epoca in cui all'inizio, 2012 anzi, iniziavano a diffondersi tablet più a consumo, tanti giornali, tante riviste comunque avevano l'esigenza di stare sul tablet, però ancora non si trovava un linguaggio, diciamo, proprio. Noi abbiamo avuto questa idea qui e ci siamo accorti che in Italia, quindi un po' è stato un nostro errore in questo caso, non c'era un grande sbocco sia come player, perché erano un po' sordi, sia culturalmente, no, sia ma voglio dire, avete toccato con mano il ritardo delle imprese editoriali italiane, sì. Punto, sì, perché poi, insomma, sì. Sto parlando della Sede del Sole, cioè, ne sappiamo qualcosa. Questo poi devo dire che al di là del sistema editoriale, delle imprese editoriali in generale è un po' in tutto, cioè noi arriviamo poi sempre un po' dopo, quando le cose vengono digerite altrove. Allora abbiamo deciso di andare negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è stato diverso, perché innanzitutto abbiamo avuto più gente che ci ascoltava, sia come potenziali clienti e sia per chi poi effettivamente l'ha finanziata e ci ha messo dei soldi. Non pochi, insomma, con i criteri italiani, tantissimi anzi con i criteri italiani, da quello che ho visto. Sì, tanti. C'è anche da dire che ovviamente loro hanno un modo di misurare i progetti che è diverso ovviamente da quello che abbiamo noi. E grazie a questo avete messo poi appunto una piattaforma appunto per digital publishing, come si dice, cioè per tutto quello che hai spiegato prima, Vision Books, che ha sede a Los Angeles, che si occupa della pubblicazione di comics digitali, di cartoon digitale, esatto, dell'applicazione di effetti speciali, che ha iniziato subito a collaborare con i più grandi editori americani, a competere addirittura con la piattaforma analoga di Amazon, eccetera eccetera. Cioè, prima cosa, secondo, avete fatto un'app per editare le fotografie, le foto, esatto, che è in concorrenza con Snapchat, quindi stiamo parlando di una cosa che in pochissimi anni, nel giro di 2 anni, ha avuto un successo clamoroso dal punto di vista evidentemente del prodotto che avete messo a punto. Sì, ecco, questo è una cosa, devo dire, per noi importante, perché poi al di là che noi fondamentalmente le persone poi sono qua in Italia a lavorare, all'estero, qui in questo caso in America, rispetto all'Italia, si è avuto sempre l'impressione che comunque poteva andare la partita, se si vinceva o se si perdeva, contavano tanto i tuoi meriti o i tuoi demeriti, quindi era una questione proprio di giocarsela. In Italia spesso non hai questa impressione, hai l'impressione che poi contino altri fattori che non necessariamente dipendono da quello che è la tua idea, il tuo prodotto, il tuo progetto in sostanza. E quindi questo è diverso, perché anche nel portare avanti il progetto in mezzo a tante difficoltà, la spinta che tu hai è notevolmente diversa da quella che accade qua. Questo comunque ha contato negli anni. È chiaro che il prodotto deve piacere, perché se non piace poi il mercato, soprattutto nel caso del mondo delle app, dove si ha a che fare con un'utenza che è di massa, e se non piace non la scarica nessuno in maniera brutale. E quindi non, no, ma come giustamente dici tu, sul mercato americano alcune delle cose che abbiamo ricordato, Snapchat e così via, hanno milioni di utenti. Da noi, se un'app in Italia per il solo mercato domestico va bene, le misure in decine di migliaia. Ecco, sì, quello è stato, no, quello sì. Noi quando abbiamo fatto anche l'app di foto, che attualmente ha 12 milioni di utenti, fin da subito ci siamo voluti misurare. Ma perché avete deciso, alla luce di questo diverso ambito, di restare poi con la sede in Italia? Ma perché comunque alla fine, nonostante noi in Silicon Valley ci andiamo spesso e ci confrontiamo, il livello comunque di tecnico che c'è qui in Italia non ha assolutamente nulla da invidiare a quello, ecco, che c'è in Silicon Valley. Quindi quella che è la qualità dei nostri tecnici non ha nulla da invidiare in questo senso. Poi loro hanno sicuramente molta più domande. No, no, d'accordo, però ecco, questo è il messaggio che a me interessava portare. Come vedete, nell'esperienza di chi ha avuto successo, i capitali raccolti lì, qui in banca gli chiedevano: fate un capannone, perché non vi possiamo finanziare una cosa immateriale come un'app, che cos'è, un intangible, noi dobbiamo finanziare capannone, cose concrete. Ecco, però loro dicono: guardate che la qualità di chi si è formato qui su queste cose è ottima. Io allora ringrazio Simone Offredo, a lui, a Francesco Scufari e ai loro 260 dipendenti. Pensate, un abbraccio, continuate su Radio 24. 24, appuntamento dai 10 alle 12 domani col Conti La Belva, con me Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli come sempre.